Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire al nostro ospite Nicola di Jar of Bones. E sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming e in podcast dal sito www.radiorcs.it. Dal rock inglese degli anni 70 passiamo all'hard rock americano dello stesso periodo in alcune delle sue tante sfumature. Prima canzone era dei Grand Funk Railroad dal titolo People Let's Stop the War, contenuta in A Pluribus Funk del 1972. La parola a Nicola per le sue sensazioni riguardo al brano. Beh, sono stato catapultato a circa 40 anni fa sotto il palco e sporcato di sudore dei capelloni rock degli anni 70, una cosa incredibile. Red Stain è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che sta dietro a questa frase? Beh, il significato è molto semplice. Noi ci siamo immaginati un foglio tutto nero con questa macchia rossa. E abbiamo pensato di quanta importanza avesse questa piccola macchia rossa in uno spazio così grande e scuro. E noi ci sentiamo un po' come questa macchia rossa, ovvero anche se non verremo mai conosciuti a livello internazionale o da chissà chi, sentiamo di aver fatto qualcosa per la musica italiana, per la nostra regione e per noi stessi. Quindi noi ci sentiamo questa macchia rossa che per quanto piccola sia comunque si fa notare in mezzo a un foglio di monocromatico, ecco. Dalla Detroit dei Grand Funk alla Florida dei Blackfoot, la band fondata e guidata da Ricky Medlock, oggi chitarrista di Lynyrd Skynyrd, dal disco Flying High del 1976 con il brano Island of Life. Un altro brano che sembra non avere tempo invece ha già 34 anni. Ma direi che è un brano che può essere tranquillamente lanciato per radio tuttora e ha un modo di suonare che può insegnare a molti gruppi di adesso come si suona la vera musica, il vero rock and roll, eh? Tra le vostre esperienze anche quella di condividere il palco con altre band più o meno note del panorama rock italiano, come vi siete trovati con loro e che insegnamenti ne avete tratto? Beh, diciamo che a essere onesti al 100% ci siamo trovati molto meglio con le band del nostro livello, ovvero con le band emergenti, che con le band più famose. E c'è anche da dire che osservando questi gruppi più conosciuti abbiamo imparato un po' come si sta sul palco e a volte anche come ci si comporta come band. In effetti si nota una certa maturità in certi gruppi più famosi rispetto a quelli emergenti. È anche vero che molti gruppi emergenti sono emergenti solo di nome, di fatto potrebbero essere tranquillamente delle band molto note. Questo purtroppo è un altro problema della nostra cara Italia. Vediamo allora la seconda parte con Ted Nugent, il feroce chitarrista di Detroit, ancora oggi in attività musicale, dal disco Weekend Warriors del 1978 con la canzone Need You Bad. Sarà poi la volta di ascoltare assieme a voi sei brani del CD dei Jar of Bones, Red Stain.